Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e subito, senza tanti preamboli, bentornato a Roberto Beccantini. Ciao Roberto. Buon pomeriggio Gigi, buon pomeriggio a tutti. Oh, Roberto Beccantini, convocato d'urgenza al capezzale di chi non riesce a spiegarsi questa metamorfosi della Juventus. Non parlo, Roberto, dei casi clinici, dei tanti che insomma che fanno capo a un quotidiano sportivo secondo cui Ranieri andava non tanto esonerato quanto interdetto dai pubblici uffici, ma parlo di chi, secondo me, legittimamente vedeva la Juve stentare, le vedeva perdere pezzi causa infortuni sempre di più e si interrogava, secondo me, a buon diritto sul suo futuro. Come gliela spieghiamo a questi? Non è facile perché queste 5 vittorie consecutive hanno ribaltato tutto e quasi tutti. Gigi, è il calcio, la Juventus, come bisognerebbe sempre dire delle cose normali, però se dici delle cose normali tu non mi chiami, i giornali non si fanno, perché cosa vuoi, c'erano infortuni, qualche errore di Ranieri e poi è chiaro che l'orgoglio di Alessandro Del Piero, che immagino abbia fatto anche il leader fuori campo, non solo in campo, e quindi abbia compattato attorno a lui, attorno al tecnico, la squadra, fermo restando, Gigi, che guai se la Juventus vince domenica a Verona col Chievo, perché sennò temo che mezza redazione di un giornale si suicidi. Sempre quello di prima, più o meno, a cui si alludeva prima. Senti, hai toccato i due tasti, no? Nel senso che uno è la prestazione, indubbiamente, di un oggettivamente una prestazione strepitosa di un campione, l'altra è la ristrutturazione di una squadra che. Ieri sera, comunque, oggi è difficile distinguere bene fino in fondo tra titolari e rincalzi, secondo qualcuno era addirittura 9, i rincalzi secondo me no, ma insomma basterebbe dire che non c'era Buffon in porta, no? al Bernabeu, e che nonostante non ci fosse Buffon in porta, gol subiti 0, pericoli corsi o comunque parate decisive di Manninger non direi, e quindi questo mi sembra un dato importante. Allora, io partirei da Del Piero e ti domanderei questo: quante volte diciamo dal 98 in poi, cioè dall'infortunio famoso di Udine, quante volte hai visto Del Piero a questo livello? Davvero, ci pensavo e faccio fatica a ricordarmi partite di questa grande prepotenza agonistica. Io poi sono uno di quelli che aveva sempre auspicato per lui il famoso passo indietro, se non addirittura l'impiego all'Altafini, quindi immagino che oggi tutti i delpieristi più incalliti rideranno di me e ne hanno diritto. Certo, è un giocatore che, sai, come Baggio ha fatto le delle proporzioni, se tu pensi all'impiego che ne faceva Lippi, che ne ha fatto Capello, si resta un po' interdetti, perché dov'è la ragione? È chiaro che, per esempio, Capello aveva un grande Ibrahimovic, aveva Trezeguet integro, però aveva anche sempre Del Piero. Io penso, e chiudiamo l'argomento Del Piero, Gigi, almeno per quello che mi compete, che questi 2 anni a regime di una partita alla settimana gli abbiano permesso veramente di fare un gran lavoro sul piano fisico, che gli permette poi di giocare anche forte del suo talento naturale partite di questo spessore. E su questo sono completamente d'accordo, cioè una gestione che apparentemente penalizza il campione e comunque lo fa soffrire, poi in realtà è quella che gli allunga la vita, no? Che diceva Capello. Infatti. Esatto. In generale io su questo credo che si possa concordare. Tu hai detto chiudiamo l'argomento Del Piero, lo terrei aperto per una immagine molto bella che tu hai usato stamattina sulla stampa. Il capitano attraversa un periodo, hai scritto, di fertilità balistica fuori dal comune. Amauri è il pivot che sotto canestro fa blocchi e si occupa del lavoro sporco. Del Piero è quello dei tiri da tre. Ecco, mi sembra molto felice perché dei tiri da tre, tra l'altro, credo che il terzo gol mancato di un soffio proprio alla fine, quello con quella conversione pazzesca da destra a sinistra a tempo praticamente scaduto dopo tutto quello che già aveva fatto e corso, con quel tiro che esce, insomma, il Bernabeu si è alzato in piedi dalla sua uscita, ma veniva giù lo stadio se mette anche quello. Beh sì, perché quella è veramente tripletta, si sarebbe portato via il pallone eccetera. Beh, quell'immagine mi fa piacere che ti sia piaciuta. Sì, quella dei tiri da tre col pivot davanti. Col pivot, ecco, perché Amauri, vedi, leggevo anche sui blog, gode di poca, di non eccezionale stampa, però è uno che si fa il cosiddetto mazzo tanto. Mazzo tanto. È quello che in campionato, per esempio, è stato sempre presente, più presente dello stesso Del Piero, non è così appariscente, ma gli crea varchi, si porta dietro avversari, insomma fa un lavoro che non da 23 milioni di euro se vogliamo, però altrettanto utile per questa squadra che aveva assoluto bisogno di trovarsi e si sta ritrovando. Juventus, allora, soluzioni di ogni genere, da cominciare dal ripescaggio di Thiago, da Nedved, ecco, più accentrato quando è necessario. Torniamo a Ranieri, visto che Thiago era una scelta sua e della società, visto che Sissoko è una scelta sua personale, l'insistenza su Molinaro che qualcuno avrebbe voluto facesse la fine di Ranieri. Cioè, mi sembra una Juve che oltre a sapere imporre nei momenti migliori il suo gioco su un campo come quello del Real Madrid, anche un pregio che è quello di far giocare male gli altri e che non è una roba da sottovalutare. Sì, come fa il Liverpool di Benitez, è molto bravo il Liverpool di Benitez quando appunto non deve far giocare più che quando deve giocare. La Juve, l'ultima Juve, riesce anche nel giocare. Certo, il Real Madrid, Gigi, mi ha messo paura, insomma, in bianco, non bianco. Questo era il capitolo bianco successivo, infatti. Ah, ecco, allora tornando, ecco, mi piace citare la mano di Ranieri soprattutto nell'organizzazione difensiva. Sì. Lì, sì, perché sì. Insomma, con le grottaglie, con Chiellini centrale, con Molinaro e poi con Grigera o Melberg, insomma, pur avendo dietro Buffon in condizioni normali, non pensavo che si potesse giocare difensivamente a questi livelli con questa autorevolezza persino al Bernabeu. Ecco, quindi poi per quanto riguarda i giocatori, certo, Thiago è uno dei grandi misteri del calcio, mentre su Sissoko io conto sull'effetto Obama, perché sperando che insomma qualche fischio in meno quando lui entra sul, ma senza voler far male. No. Entra un po' disarticolato. Entra un po' disarticolato viaggia un giallo a partita. In quello sì. Però così per restare a Thiago, che sembrava un caso limite, no? Sì. Sembrava anche lì un acquisto da interdizione legale. Beh, insomma, se, lo dicevo già ieri, che se Thiago, come è stato recentemente, per moria dei compagni di squadra, ma comunque se alla fine riesce a giocare qualche partita di fila, va in condizione anche lui, cioè comincia a ritrovare anche lui un minimo di distanze e di passo partita, che è quello che secondo me si dimentica troppo spesso nel calcio di oggi. Cioè, una volta lo trovavi perché le alternative erano poche, oggi se sbagli la seconda partita, la terza non la giochi più. Perché sono troppe. Certo. Poi, Thiago, soprattutto poi in un centrocampo così, che abbiamo tutti giustamente definito muscolare, pensando a Sissoko, pensando a Pulse, lo stesso Marchisio, è un radar al limite. Ecco, Zanetti non c'è, lui sì era il radar della Juventus in discusso, ma è quindi Thiago che non sarà stato un genio, ma non poteva neppure essere quel nessuno, quella metà di niente, per usare una frase cara a qualcuna, che si è visto finora, ecco. Ti inoltro un po' di posta, a parte i molti complimenti che fioccano come sempre quando arrivi tu e quando partecipi. Questa è carina, per esempio Sonia, che è una juventina fedele, scrive: sono andata a cena con amiche cui non importa nulla del calcio, al ritorno il marito interista ha omesso i dettagli sulla partita della Juventus. Sonia, glieli stiamo così, ci stiamo sforzando di raccontargliene qualcuno noi. Roberto Corti, e non è l'unico, gioca sul soprannome e dice: ma queste sono le merengues o sono diventate le merendes? Ieri sera era difficile sciogliere questo no, anzi. Era facile, c'erano proprio delle vere, ma è un Real veramente, Madonna, Schuster, passare da Capello a Schuster, adesso io voglio, mi metto nei panni di Calderon, ma leggevo in agenzia che qualcuno ha chiesto la sua testa, qualche socio del Real Madrid, a Roma dicono e te credo, perché non si possono ridursi così, comunque. Una cosa, cioè una sensazione di insicurezza, a parte quell'errore che a quel livello è impensabile, cioè la barriera che non copre il palo, no? Perché il tiro di Del Piero, perfetto, intendiamoci, però se gli lasci un buco a Del Piero... Quando cade un muro, Gigi, siamo tutti contenti. Certo! Però meno 11 ieri, ecco. Meno 11. È vero, ma insomma, se lasci un buco in barriera Del Piero e ovviamente il portiere, che o la sbaglia lui oppure uno si leva all'ultimo, non si capisce se c'è un buco da quella parte che non era sua, è chiaro che è fatto. Io penso anche, ricostruendo la partita e al di là delle loro proteste, perché in effetti un paio di episodi in area su un paio si poteva discutere, ma al di là di quello io credo che il Real sia stato sorpreso ancora una volta dall'avvio della Juve, come già all'andata, e poi abbia molto patito quell'occasione che Torres si è mangiato davanti al portiere, perché lì era subito dopo l'1-0 e probabilmente trasformata quella, sì, cambiava tutto, insomma, forse. Sì, certo, certo. Anche se poi a pensarci bene, quella è stata l'unica occasione chiara costruita da Real in casa. In questo è il dato abnorme ed enorme. Certo, con Robben sulla sinistra al posto di Drente, che mi ha molto deluso, la partita probabilmente avrebbe preso un'altra piega, come la prese, se ricordi, all'andata quando entrò Robben nel secondo tempo. Però è chiaro, insomma, la Juventus ha dato una lezione tattica al Real Madrid, se non vogliamo parlare di una lezione estetica. E Ranieri si è messo in tasca Schuster e giustamente Del Piero è uscito con una standing ovation, perché insomma la Juve ha realizzato la partita perfetta nelle condizioni in cui era. Non c'è dubbio. Stavo cercando, ecco, l'ho trovato, un messaggio che è firmato Riccardo, vorrei che mi aiutasse a rispondere, perché, perché questo è un argomento centrale che in questo momento riguarda la Juve, ma che è un po' più generale. Scrive questo ascoltatore: aiutatemi a capire perché, spiegatemi perché, aspetta che lo rintraccio esattamente, perché per alcuni giornalisti le colpe sono sempre degli allenatori e i meriti sono sempre soltanto dei giocatori. Voi avete appena detto che, se non altro nella fase difensiva, Beccantini ha appena detto, se non altro nella fase difensiva si vede bene la mano di Ranieri, e io sostengo, scrive questo ascoltatore, che lo si vede anche un pochino di più. La fase difensiva, certo, la fase anche del, io trovo, del rilancio della, oggi si dice ripartenza, che Gesù ci perdoni, della ripartenza costante, comunque, no? Del fatto di non rinunciare mai a riproporre un'azione di contrattacco. Sì, diciamo che Ranieri ha questo di buono, che insomma non si atteggia a genio, lavora su quello che ha e cerca di rendere funzionare il progetto. Magari a volte le sue squadre graffiano senza mordere, lasciano all'avversario troppo porzione di partita, però sai, nessuno è perfetto. Però è chiaro, diciamo, Ranieri ha commesso i suoi errori, ma torniamo sempre al punto di partenza. Basta mettersi d'accordo: se quando si vince è solo merito dei giocatori, quando si perde viene da sé dire che allora è colpa dei giocatori. Insomma, non si può sempre, anche se l'Italia viene spontaneo, condizionare le regole, le leggi ai propri interessi. C'è dubbio. Non ce ne sono dubbi, Roberto. Io chiuderei con una proiezione. Lo so che questa è la cosa più impegnativa, nel senso che è ovvio che insomma, la crisi è superata, anzi il peggio è passato. Adesso che cosa prevedi in prospettiva in questo senso? Ci sono dei rincalzi che hanno fatto benissimo, ci sono dei titolari che per fortuna la Juventus un po' alla volta stanno guarendo o guariranno. Questo autorizza sogni di gloria con la S maiuscola a parer tuo o serve ancora comunque qualche cautela visto il precedente? No, serve ancora qualche cautela, perché non dimentichiamo mai che da questo girone la Juventus secondo me sarebbe uscita comunque qualificata, anche se devo ammettere che mi aspettavo molto di più e dal Real e dallo stesso Zenit di, sì, San Pietroburgo. Ecco. Certo. Poi in campionato dietro le quinte in tutti i sensi deve recuperare parecchio, per cui io aspetterei veramente, è uscita dalla crisi, su questo non c'è dubbio, certo. Però per arrivare a tornare a essere una Juventus competitiva ad alto livello bisogna veramente incrementare il livello del gioco, perché il carattere, la voglia e i colpi di e alla Del Piero non sono sufficienti per poter centrare gli obiettivi minimi, cioè di rientrare in lotta per la zona Champions e andare fino ai quarti nella stessa Champions. Grazie della visita, Roberto. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie. La visita, ripeto, al capezzale di chi non più tardi di 2 settimane fa sosteneva, ripeto, che la Juventus era una squadra costruita da incompetenti e affidata a un allenatore che andava cacciato con urgenza. È inutile che facciamo nomi e cognomi e testate di chi sostenevano con un discreto vigore, direi, questa tesi. Bella questa mail firmata Davide Samanni, la sintetizzo un pochino, ma cerco di rispettarne il senso, anzi mi impegno a farlo. È da un paio di giorni che mi sento un po' meno fiero di essere italiano. L'altra sera per l'elezione di Obama ho sentito il discorso dello sconfitto McCain e già lì è come mi avessero dato una martellata. Onore al vincitore. ha detto tre volte, e dire che il vincitore sarà anche il mio presidente, ha aggiunto, mi sovvengono le dichiarazioni che si fanno in Italia dopo le elezioni. Poi ieri sera, più nel piccolo, mi sono ripreso dalla prima martellata e una seconda me l'ha assestata al Bernabeu, in piedi ad applaudire Alex Del Piero. Mi piacerebbe che una cosa del genere prima o poi riuscissimo a vederla anche in Italia. Ci sono molti ascoltatori già collegati, ci sono molte notizie. Più tardi ci sarà un aggiornamento sulla situazione dopo la quarta giornata di Coppa con il ministro degli esteri, con Fabio Tavenni. Sentiamo Francesco, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei, Garantini. Dica. Io avrei desiderio di un suo parere, se vuole, per carità, sul momento un po' strano di questa squadra, che è la mia squadra, la Fiorentina. E una cosa al volo: cosa ne pensa di Montolivo e Pazzini, visto che questi sembrano due bombe a mano a cui nessuno toglie mai la sicura, perché non esplodono mai, quindi non lo so. Cioè, sbaglio o c'è un amico di fianco a lei che sta sogghignando alla battuta? No. In macchina, allora era comunque un sottofondo pertinente, perché insomma a me comunque... Che sogghignava, era lei l'amico che sogghignava? No, io certamente sì, ma mi era sembrato di sentirlo anche accanto a lei. No, purtroppo sono solo, era meglio se c'avevo un amico a fianco. Condivido in pieno la sua definizione. Sono due... Sì, non mi piacciono mai le metafore belliche, però in questo caso ci sta, perché è usato con molta ironia. Non gli levano la sicura o non se la sanno levare, sono d'accordo. Soprattutto per Montolivo, che promette, ma promette da molto tempo. E insomma, quando le promesse non tardano a essere mantenute, poi giustamente si comincia a avere dei dubbi. Io credo che la Fiorentina sia molto giovane di età e di esperienza per poter pretendere la maturità che dà la continuità. Poi insomma ci sono i momenti fortunati e quelli meno. Io credo che sta Coppa non fosse molto fortunata, ce lo si era capito a Lione, no? al debutto, alla prima giornata. Ieri sera è andata un po' alla stessa maniera, sia pure in modo meno beffardo, nel senso che per un'ora ci sono state le occasioni per chiudere la partita, per metterla sul 2-0 e quindi per vincerla, non sfruttando quelle con i tedeschi, e il Bayern è rimasta la squadra più tedesca che ci sia. Poi si pagano queste cose in ambito internazionale e così è andata, insomma. Tocca a Gaetano da Milano, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno. Io volevo parlare un attimino di Del Piero. Sì. Io sono convinto di una cosa, che Del Piero è un gran fuoriclasse, però è ritornato un fuoriclasse dopo che c'è stato quella maretta, che lei si ricorderà, di Zeman, dove diceva che alcuni calciatori erano un po' gonfi. Forse aveva fatto anche il suo nome, non ricordo. Quando si è messi in linea, il De Piero è ritornato il gran fuoriclasse che era. Guardi la bambola che l'ha dato ieri a Cannavaro. Anzi, qui a Lippi le do un consiglio, sì, di chiamarlo, perché come questo non ce n'è. Grazie, auguri. Grazie a lei, credevo che il consiglio fosse di sgonfiare anche Cannavaro, pensavo di averla capita così. Grazie Gaetano. Sentiamo Davide, Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Devo recitare il mia culpa, perché ci siamo addormentati prima di Calciopoli con un peso, una palla al piede che era, si chiamava Alessandro Del Piero, e ieri sera ci siamo risvegliati con un grande campione. Solo questo, abbiamo dovuto aspettarlo qualche anno, ma la Serie B e già l'anno scorso avevano dato ottimi segnali, e poi quest'anno è definitivamente ritornato quello, non forse del 98, ma molto vicino a quello, e ero fra quelli che pensavo appunto fosse un peso per la squadra, e invece ci dobbiamo ricredere, credo. Sì, ma direi non da ieri sera, perché in questi anni comunque Del Piero ha fatto in tempo, mi pare, se non sbaglio, ha fatto in tempo a vincere un titolo di capocannoniere in Serie B, e va bene nel senso che per uno della sua caratura non è questa grande impresa tecnica, è un'impresa morale però, e come tale ha un significato da quel punto di vista forse anche superiore. Poi se non sbaglio ha vinto anche un titolo di capocannoniere in Serie A lo scorso anno, quindi voglio dire, riscoprirlo ieri sera dopo come ha detto lei 2 anni addirittura di oblio, insomma, mi sembra mi sembra un po' traumatica, mi sembra che ci fossero, mi sembra che questa eclisse non ci sia mai stata, se parliamo di eclisse. Parliamo di Juve, il Del Piero nazionale è tutto un altro film ed è sempre stato un altro film, ma mi sembra che poi se invece parliamo di riconsacrazione nel caso di ieri sera, allora credo che ci siamo a pieno titolo, insomma. Tra poco, anzi, ascoltiamolo subito in un frammento del dopo partita. È il massimo in una partita del genere, di questa importanza, vincere, segnare due gol. L'applauso del pubblico è la cosa più bella che può capitarti nel calcio, oltre a vincere, perché è un riconoscimento che va oltre tutto, e quindi sono orgogliosissimo, sono strafelice stasera. E spero che il ciclo non sia chiuso, che continui. Beh, si è visto, però, insomma, si sono viste tanti rientri di Del Piero in panchina, no? Nel passato recente, ma non soltanto recente, soprattutto al tempo di Cappello, si ricordano labiali, calci nell'aria, tutte che volavano, espressioni. Il fatto che ieri sera si è alzato in piedi Bernabeu e che quando Del Piero è stato inquadrato in primo piano per una frazione di secondo si sia visto l'occhio anche un pochino lustro, credo che sia che l'abbia da un lato enormemente ripagato, e dall'altro, come diceva Beccantini prima, magari a mente fredda, ripensandoci con calma, chissà che qualche vessazione del passato, perlomeno vissuta come tale, oggi non abbia trovato poi un riscontro, nel senso che arrivare così a 34 anni significa essere integri e significa forse anche essere stati risparmiati un pochino in passato. Provincia di Milano, Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Io volevo tornare indietro di un giorno e fare riferimento alle dichiarazioni post partita del Mourinho, quando ha detto che l'Inter ha fatto 7 gol e stranamente la partita è finita 3-3. Però evidentemente suppongo che mentre la sua squadra segnava i 3 gol, lui stesse prendendo appunti, perché il primo e il terzo gol gli ha regalato il portiere, il secondo gol insieme alla palla è finito in porta anche il difensore della Famagosta. Mi chiedo, cioè, visto che lui è appena arrivato in Italia, ha imparato la parola pragmatismo, empatia, pirla, ma coerenza sa cos'è o bisogna spiegargliela? Sì, effettivamente sa com'è, quando non si sa bene come cavarsela si cerca la battuta, non sempre le battute riescono. Indubbiamente quella dei 7 gol segnati tutti dall'Inter è una battuta da bar del gratosolio, ecco, a essere generosi e senza per questo voler mancare di rispetto al livello qualitativo delle discussioni calcistiche dei bar del gratosolio. Certamente ha ragione lei. C'è un titolo sul Corriere della Sera di oggi che sormonta l'articolo firmato da Fabio Monti, parliamo di persone che sull'Inter sono particolarmente documentate. Il titolo è Moratti è stufo dell'Inter, virgolette, salvata solo la faccia. Credo che qualche piccolo nodo stia venendo al pettine e che il tempo concesso a Mourinho stia cominciando, ma non sto parlando di esoneri, ma insomma il tempo concesso a Mourinho per sperimentare e per battere nuove vie rispetto a quelle del predecessore stia più o meno scadendo, perlomeno nell'ottica della società. Vogliamo sentire un'altra voce? Sì, ascoltiamo, perché insomma, ha giocato anche la Fiorentina ieri sera, come ci ha ricordato giustamente l'ascoltatore di prima. Poi è ovvio che non c'è molto da celebrare, ma c'è qualcosa da spiegare, magari potrebbe farlo Prandelli. Avevamo speso tanto, avremmo dovuto mantenere un po' più di ordine, anche perché il risultato in quel momento era a nostro favore, però ci sta, insomma, un po' di inesperienza, anche perché mi sembra che abbiamo una buona superiorità numerica, quindi è un peccato perché abbiamo fatto secondo me un'ottima partita. Ci è mancato il raddoppio in due situazioni importanti, però questa è la strada che dobbiamo percorrere, la strada dove molti giocatori devono fare esperienza, e la stiamo facendo. Esatto, è incontrovertibile. Provincia di Pisa, Marco, buongiorno. Buongiorno, sì, anch'io volevo parlare della Fiorentina, ma ormai ha già detto quello che pensavo, l'ha già detto l'ascoltatore di prima. Però volevo chiederle se, visto che questi cambi di allenatore, come succede, portano a poco, e invece questa volta mi ha sorpreso Cellino, che ha tenuto Allegri e sta avendo risultati. Dovrebbero fare un mea culpa, presidente, e pensare quando allestiscono le squadre. Mandare via Iachini, secondo me è stata una cosa che non era da Chievo, secondo me. Non so, lei che è un appassionato del Chievo. Beh, non è inedito, presente. Non è inedito, però. Il Chievo in questo mi sembra che insomma si sia già esibito in passato i cambi di allenatore. Io ne ricordo addirittura uno a tre giornate dalla fine. Credo di Beretta, che certamente lasciamo stare quali potevano essere le colpe di Beretta, però in quel momento, di fronte a una retrocessione praticamente certa, Beretta fu sostituito da Danna, mi pare, cioè per linee interne, e arrivarono credo 3 vittorie su 3 o comunque come minimo 7 punti su 9, e il Chievo si salvò. Io le posso dire che e glielo posso dire con cognizione di causa che già lo scorso anno, dopo, nonostante la promozione, al Chievo non erano convintissimi che non di Iachini come persona, come tecnico in assoluto, ma che il calcio di Iachini alla guida del Chievo, che si era visto in quell'anno di Serie B, fosse trapiantabile in Serie A. Secondo me avevano ragione allora, però questi sono evidentemente punti di vista. Era stato D'Angelo a sostituire Beretta al Chievo qualche stagione fa, a tre giornate dalla fine. D'Angelo non Danna, è vero, grazie agli ascoltatori veronesi che hanno immediatamente corretto il tiro. E bentornato al Ministro degli Esteri, buongiorno a Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, saluto a tutti. Da quanto tempo non accadesse, non sto a chiedertelo perché le statistiche in questo caso hanno un peso molto relativo, ma non c'è dubbio che sia stato un turno anomalo questo di Coppa, questa quarta giornata, questo doppio turno, perché su 4 non ha vinto nessun inglese, e questa credo sia la vera notizia del giorno. Beh, Gigi, ti dico anche su 4 spagnole quante ne hanno vinte. È vero anche questo. 0. E allora vuol dire che è un turno storico, perché ci sono 3 vittorie delle francesi, 0 vittorie su 8 confronti nei quali erano impegnate Spagna e Inghilterra, perché... bisogna pensare anche alla Spagna, nel senso che i due campionati che storicamente sono considerati i più forti, in 8 partite non hanno prodotto una vittoria. Il Villarreal ha pareggiato contro l'Alborg, il Real Madrid ha perso, il Barcellona aveva pareggiato in casa e l'Atletico Madrid è stato defraudato al 90 e passa esimo ad Anfield per uno dei rigori più ridicoli che sì, io ricordo. Degli ultimi tempi sicuro. Sì, degli ultimi tempi sicuro. Quindi devo dire che in questo turno l'Italia ha 2 vittorie e 2 pareggi, la Francia ha 3 vittorie, cioè la Francia è la vincitrice morale di questo turno. E è curioso il fatto che con 0 vittorie né una spagnola né un inglese sostanzialmente rischino troppo la qualificazione. E questo credo venga a spiegare il fatto che era un turno tranquillo per tutte, ed è un turno nel quale sostanzialmente sia le spagnole che le inglesi hanno potuto perdere senza, o non vincere senza grandi problemi, in virtù di quello che avevano fatto nelle partite precedenti. È anche chiaro che ad esempio il Real Madrid in questo momento è una squadra che con 2 sconfitte consecutive, entrambe contro la Juventus, non è che può passeggiare tranquillamente negli ultimi 2 turni, anche se avrà Zenit e Bate Borisov. L'Atletico Madrid è comunque di fatto qualificato perché di punti ne ha 8, il Barcellona si è qualificato nonostante il pareggio e il Villarreal pure. Per cui, e questo vale grosso modo anche per gli inglesi, no? Vale anche per le inglesi. Quindi nessun danno permanente, cioè nessun danno in proiezione o quasi nessuno. No, diciamo che ad esempio il Chelsea deve stare comunque attento, anche se può sfruttare il fatto che Roma e Bordeaux tutto sommato dovranno eliminarsi vicendevolmente, però il Chelsea ha un punto sulla Roma e un punto sul Bordeaux, e il Cluj non è comunque ancora fuori perché ha 4 punti. È vero. Quindi, niente di in prospettiva ricordo, però il fatto che non ne vinca una su 8 delle 2 grandi potenze europee di club di questi anni è indubbiamente. Anche perché, Gigi, alcune partite erano onestamente facili, cioè la partita del Barcellona contro il Basilea era una partita quotata più bassa con l'uno che probabilmente nemmeno era pagato per il Barcellona, ma era pagato soltanto lo scarto. Certo. Non cominciamo a pensare male, perché no. No, ma perché la tentazione ci sarebbe in effetti. No, però poi vedi i filmati, ha sbagliato 20 gol davanti alla porta, e quindi prima di subire l'1-1. Dunque, delle situazioni da esaminare girone per girone, credo che il più interessante per noi sia quello che riguarda la Juventus è qualificata, l'Inter non ha mai avuto problemi di qualificazione, della Roma è già detto, e quindi proverei a vedere quante probabilità a parere tuo può avere ancora la Fiorentina di farcela. Guarda, secondo me più di quelle che sembravano ieri sera, in questo senso. Ieri sera è chiaro, la Fiorentina ha gettato una grande occasione. Devo dire che complessivamente nelle due partite contro il Bayern di Monaco la Fiorentina ha dimostrato e chiedo scusa ai tifosi della Fiorentina, di non meritare di andare avanti per un motivo molto semplice, cioè, o meglio, di meritare per farsi l'esperienza che la Fiorentina ancora non ha, perché la Fiorentina anche all'Allianz Arena non ha giocato una partita da 0-3. Ieri sera la Fiorentina avrebbe probabilmente meritato di vincere, e quindi è uscita con le ossa rotte dal doppio confronto, ma soprattutto dal punto di vista dell'esperienza, perché la Fiorentina a Monaco ha regalato tanto, e anche ieri sera ha concesso quello che in Europa paghi molto più che in campionato. Fiorentina ha 3 punti, ha una strada soltanto per poter qualificarsi, e cioè farne sei vuol dire andare a 9. A 9 deve trovare il Lione, oppure sperare che il Lione si fermi a 8. Se trova il Lione passa. Se trova il Bayern, cioè, ovviamente no. Non credo troverà il Bayern, potrebbe trovare il Lione. Per trovarlo lo deve battere la prossima volta. Appunto. Sì, è vero. È difficilissima, è quasi disperata, ma non è chiusa questa strada. La Fiorentina, è ovvio, non può pensare di qualificarsi con 4 o con 6 punti, si deve qualificare con 9. Deve battere il Lione e quindi superarlo anche nel doppio confronto, sapendo che il Lione non può accontentarsi del pareggio col Bayern all'ultima giornata, e appunto lì il Lione deve andare per forza a quota 11, non basta al Lione la quota 9, basta la quota 9 solo se la raggiunge pareggiando con la Fiorentina e di fatto estromettendo il Lione. Ineccepibile, ultimo minuto per proiettarci sul fine settimana internazionale, che mi pare abbia come match clou Arsenal-Manchester United, sì. E quindi subito il modo per la Premier, uscita appunto un po', non dico l'ossa rotta neanche ridimensionata, ma insomma uscita un po' a maccatella così da questo martedì-mercoledì, per tornare subito alla ribalta. Sì, va detto che sia l'Arsenal contro il Fenerbahce che il Manchester United contro il Celtic hanno fatto robusto a turnover e non può non essere così, anche perché davvero loro hanno poi hanno la parte di Natale, la fase natalizia che è pienissima, poi arrivano comunque anche le varie coppe interne che per loro sono importantissime, quindi è normale gestirsi un po'. L'Arsenal ieri ha sbagliato una mezza dozzina di gol con Van Persie, e quindi in realtà è uno 0-0 che è figlio più del caso che di altro. Credo però che sia una partita che voglia dire tantissimo, nella misura in cui il Manchester United non è partito come sempre stando davanti a tutti, e anche l'Arsenal ultimamente qualche colpo a vuoto l'ha fatto, perché ha perso in casa con l'Hull City e ha perso in trasferta con la squadra di quello che rimette in gioco benissimo con le mani, cioè lo Stoke City di Delap, e quindi qualche punto l'Arsenal l'ha lasciato in giro. Adesso è chiaro che anche Chelsea e Liverpool avranno sicuramente più il Chelsea un po' più nelle gambe il mercoledì o il martedì di Coppa, però è chiaro che quella delle due che dovesse perdere la partita di sabato sarebbe una squadra che ne uscirebbe palesemente ridimensionata, proprio perché quest'anno nella corsa del titolo non sono soltanto Chelsea, Manchester United e Arsenal, ma c'è anche il Liverpool, e quindi insomma... Certo. Chi dovesse perdere troppo tempo poi lo pagherà. Ah, sicuro. Ne riparliamo nel nostro appuntamento di martedì. Saluti a tutti. Ciao. Grazie a Fabio Tavelli. Visti i suoi commenti su alcune testate, che poi era una ed era Tutto Sport, le ricordo i suoi commenti, scrive l'ingegner Fabio da Torino, su Del Piero, di qualche tempo fa. Basta Del Piero, non se ne può più, ha fatto il suo tempo e molte altre sulla stessa linea. Perciò lasci stare, tanto nel vostro ambiente si può dire e scrivere ciò che si vuole, e si prenda meno sul serio. Allora, io credo di aver già detto prima che quello a cui si riferisce questo ascoltatore è il Del Piero versione azzurra, che mi pare non abbia comunque non abbia mai lasciato tracce, per esempio, simili a quelle di ieri sera. Quindi distinguevo tra l'uno e l'altro Del Piero. Si prende meno sul serio, è uno sforzo che cerco di fare quotidianamente. Non mi chieda però, ingegnere, di prendere sul serio tutto sport, perché questo è superiore alle mie possibilità. Angelo, in linea da Roma, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Innanzitutto complimenti alla Juve, perché ovviamente io personalmente non pensavo che potesse qualificarsi con, in anticipo per gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Io volevo parlare un attimino della Roma e volevo rivolgerle una domanda in particolare. Sì. Tutti noi, io parliamo Totti, Capitano o Vucic, ma io credo che alla Roma fino ad oggi sia mancato un certo Pizzarro. Pizzarro, mi scusi se perché la voce arriva molto disturbata e un po' singoltante. Pizzarro, sì, Pizzarro era un'assenza indubbiamente con cui è una delle tante con cui la Roma ha dovuto fare i conti. La Roma è stata indubbiamente penalizzata da questa assenza, forse, cioè, io credo che sia stata penalizzata l'assenza di Totti, poi probabilmente anche da quella di Pizzarro. È stata molto penalizzata dalle presenze, però, la Roma, soprattutto di un paio di persone, di un paio di giocatori in difesa che hanno dovuto sostituirne altri e che palesemente non sono all'altezza, da un paio di acquisti nuovi, insomma, che francamente non sono da Roma, o comunque non erano da Roma di ambizioni, erano da Roma che insomma, poteva comprare quello che poteva comprare. Il ripasso quotidiano di Storia dello Sport provvede come sempre Nicola Filippone. Sembra ieri. 6 novembre 1996. A Sarajevo cala il sipario sull'avventura di Arrigo Sacchi come commissario tecnico azzurro. L'Italia viene sconfitta a sorpresa in amichevole dalla Bosnia per 2-1. Per Sacchi si tratta dell'ottavo KO in 53 incontri ufficiali. A Sarajevo il CT fa esordire Padalino e Giunti, le ultime novità di una lunga lista. In 5 anni ha infatti convocato ben 93 giocatori. Qualche settimana dopo la sconfitta contro la Bosnia, Sacchi tornerà sulla panchina del Milan per sostituire Tabarez. Al suo posto, alla guida della nazionale, arriverà Cesare Maldini. Sono Andrea da Treviso, scrive Andrea Spinelli, nome e cognome, che ci racconta le sue disavventure per acquistare un biglietto per Chievo-Juventus. È una partita che mi pare non abbia limitazioni per ordine pubblico e quindi si tratta soltanto di forche caudine, prima ancora dei tornelli da stadio, per trovare per acquistare regolarmente attraverso i canali normali acquistare un biglietto. Allora, visto che non è l'unica di queste disavventure, ho pensato di trasmetterlo al nostro e vostro amico Belinazzo del Sole 24 Ore. La settimana prossima metteremo insieme una parte di puntata dedicata per l'appunto a questa e ad altre disavventure di chi vorrebbe semplicemente andare allo stadio senza bombe carta e senza aste di bandiera o mazze ferrate a vedersi una partita, e trova probabilmente più ostacoli di quanti non ne trovino invece quei signori lì. Gianni da Pesaro, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Complimenti sempre per la trasmissione, ovviamente. Allora, non mi vorrei soffermare proprio su Del Piero solo, perché Del Piero è sempre semplicemente magnifico, ma proprio nella prova di ieri e anche di altre partite in assistenza di qualche altro giocatore, magari tipo Thiago, che si era un po' perso per strada e ringraziando Dio è tornato un pochino a fare quello che sa fare veramente, e altri giocatori diciamo un po' meno, sempre che diciamo un pochino meno, come si dice, adesso non mi viene la parola, sono anche un po' emozionato, per cui addirittura Gianni. Sì, perché io quando parlo della Juventus proprio non connetto proprio, onestamente. Sono talmente innamorato della mia Juventus che proprio do in un veramente alle volte, anche se sono avanti con l'età, diciamo, ecco. Per cui ecco, vorrei fare i complimenti per la cosa. E una piccola parentesi un po' polemica con il signore, come lo chiamano? Ultimo One, come si chiama quel signore lì? Si chiama Mourinho, per quello si chiama Mourinho. Cos'è Mourinho? Ha un nome e un cognome. avesse un pochino più di rispetto per il popolo italiano, e noi ci dovremmo calare un pochino meno le braghe rispetto a lui, davanti a lui, perché non offende gli sportivi italiani, un tifoso offende un po' tutte il popolo italiano. Gianni, non, se non c'era la tracimata finale andava così bene, lei si commuove persino per la sua Juventus, ne ha pieno diritto, non chieda a tutti di farlo. Io sostengo che quando ci si commuove per una squadra, qualunque essa sia ben chiaro, sia già un pochino oltre rispetto a questa branca del tempo libero, però fin lì era andato bene. Non mi risulta che Mourinho abbia mai mancato di rispetto al popolo italiano, queste sono sciocchezze in libertà. Mourinho ha mancato di rispetto una volta, certamente, a un suo collega che era Beretta, l'allenatore del Lecce. Ogni tanto tracima con espressioni di, non con espressioni, insomma, con atteggiamenti di gusto magari non discutibile, ma che abbia mancato di rispetto al popolo italiano. Vediamo di darci una calmata. Franco da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Granzini, io volevo fare appunto un intervento su Mourinho. Vede che il tifo, ha sentito prima, no, che il tifo fa male, cioè questa squadra che è bellissima perché stava andando così bene, stava spiegando come la passione per una squadra sia così coinvolgente da, e però poi il problema è che è così coinvolgente da dire una minchiata finale terrificante. Esatto, infatti io volevo premettere che sono quasi sempre d'accordo con le sue opinioni, tranne in alcuni casi, però lì è una mancanza mia perché essendo tifoso a volte trascendo, come si vuol dire. Ma non è questione di non essere d'accordo con le opinioni, è questione semmai di essere d'accordo con quel minimo di limite che non può non esserci. Certo, questo io sono perfettamente. Comunque sfondi il limite anche lei, tanto ormai ci... No, no. Scherzo. No, io volevo soltanto fare una considerazione tattica, per quello che può essere una considerazione tattica fatta da un profano. Io sono un tifoso dell'Inter e mi sembra Mourinho una persona, a prescindere dal personaggio e da quello che sia, mi sembra una persona piuttosto intelligente, e non mi spiego allora come mai continui a perseverare facendo giocare due esterni, Mancini e Quaresma, che tutte le volte che li ha fatti giocare l'Inter o ha perso o ha fatto delle figuracce. Ecco, una considerazione che facevo era quella: pur avendo fiducia nel personaggio e nella persona, però mi lascia un po' perplessa questa sua, diciamo così, testardaggine. Niente, volevo solo una sua opinione. La mia opinione è che non personalmente, insomma, visto che è la mia opinione, non sono le uniche cose di Mourinho che mi lasciano perplesso. Mancini e Quaresma sono due giocatori che fino a qui non hanno reso in proporzione all'investimento. Ecco, credo che questo sia il minimo che si possa dire, ed è persino un po' eufemistico. Credo anche che faranno fatica, in prospettiva persino, a rendere, per quanto sono stati pagati carissimi, e credo che non sarà semplicissimo insomma, vedere il buon fine, no? di questo investimento. Poi certamente sono partiti male, questo è già oggettivo, il resto può essere una valutazione che poi si potrà discutere. Abbiamo ancora due ascoltatori, mi pare abbiamo 3 minuti scarsi di trasmissione, avevamo anche una vocina da sentire, vediamo di dar prima spazio agli amici già collegati. Da Varese, Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno a lei Garanzini, buongiorno a tutti. Dica. Senta, io da ex tifoso juventino volevo dire che Del Piero è sicuramente un giocatore eccezionale, ma non è un fuoriclasse come lo sono stati invece i Platini, i Maradona, eccetera. E noi pensiamo che sono fuoriclasse sbagliando i Del Piero, i Totti, i Cassano, con delle differenze da l'uno all'altro evidenti. Sì. Secondo me il fuoriclasse vero è quello tipo Platini, che sa giocare a pallone, sa smitizzare. Gli viene annullato forse il più bel gol della storia in una finale di Supercoppa Intercontinentale, e si sdraia per terra, si fa un sorriso e finisce tutto lì. Forse ci siamo dimenticati chi sono questi veri fuoriclasse, tutto lì. Sì, io credo che la parola fuoriclasse oggi non sia stata usata in questo programma. Anch'io tendo a spenderla il meno possibile, perché se si è fuoriclasse lo dice la parola stessa, no? Se si è fuoriclasse è difficile che in quella classe ce ne possano essere tanti, però appunto, visto che nessuno oggi qua l'ha usata, non ho capito granché il richiamo all'ordine, e non ho capito nemmeno certi altri paragoni, perché insomma... si può discutere su come definirla questa gente, ma lei per esempio ha detto del Piero Totti Cassano, beh, diciamo che il terzo è un errore, no? Rispetto ai primi due, perché poi qualcosa bisogna anche dimostrarla comunque al di là delle categorie che si vedono, e non basta dimostrarla con i ricami e i rigori, bisogna poi anche metterci qualcosina di più. Da Genova, Ermanno, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Dica. Io intervengo in merito a una delle prime mail che ha letto in trasmissione oggi, sì. Quando è uscito Del Piero tutto l'applauso dello stadio. Sì. È stato bellissimo, volevo solo ricordare che un giocatore di categoria superiore come Totti, visto che fuori classe non si può chiamare, è stato applaudito anche a Genova 2 anni fa quando ha fatto un gol di splendida fattura alla Sampdoria, è vero, quel sinistro al volo da incrociato, è quello che dice? Sì, bravissimo, io sono tifoso sampdoriano, ritengo a differenza sua anche Cassano un giocatore di categoria superiore. Questo è il cuore che mi fa parlare. Il cuore. Comunque... per il cuore che capisco, infatti a Genova non le dico a Bari, però ho l'impressione che altrove si possa ancora discutere, sempre con la speranza che un giorno lo diventi. Lo spero anch'io per lui. Però ha ragione. Lei ha ricordato un episodio di grande fair play, di grande educazione sportiva che la Sampdoria fece, che i tifosi sampdoriani fecero 2 anni fa, alzandosi in piedi per quella grande prodezza di Totti. È verissimo. Ce ne saranno state altre. E l'ascoltatore che ha mandato quella mail comunque ha fatto un discorso, diciamo, più generale, che partiva da una suggestione anche della notte precedente. Grazie a tutti, grazie a Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.